E allora bentornati in questa diretta di tutti i giovedì sera dalle 21 alle 22, cioè alle 10, con Boca Chica Cosmodrome, l'unico programma che si occupa di espansione del capitalismo e dell'uomo e delle donne, ovviamente, nello spazio. E anche dei tardigradi. Soprattutto di molti animali, sì. E parleremo di tutto ciò, come facciamo tutti i giovedì, e lo faremo solo dopo la sigla. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. La nave hop, la cama du tiem, lo dirti e lo dirti. Dirti, dirti. 10. Allora, bentornati a questa diretta, come dicevo poc'anzi, bentornati nel cosmo, nello spazio e soprattutto sulle nostre... Dove eravate prima? Sulle nostre frequenze, sì, assolutamente. Dove eravate? Perché se non c'eravate, non avete seguito, beh, sappiate che esiste un sito, forteprenestino.net, nella slot della radio, Forte Radio Forte, nella slot di Boca Chica Cosmodrome, in cui troverete tutte le puntate di questa seconda edizione, questa siamo all'ottava, ma anche le puntate della vecchia, della prima e della primissima edizione, che l'eroica, esatto, di cui andiamo molto fieri, Bimo, no? Sì, enormemente fieri. Beh, siamo qui quindi Cobol, Bimo e Ray e vi intratterremo per questa oretta informandovi anche su ciò che accade al di sopra delle nostre teste. Eh sì. Oggi avremo grandi novità. Allora, io vi ricordo che abbiamo un Telegram al quale potete iscriverci anche, esatto, dopo che vi siete iscritti. E scrivere a noi, farci molte domande, mandarci anche qualche regalo in termini di proposte o di qualsiasi altra cosa vi baleni nella mente. Noi saremo molto felici di canzoni, che ne so, tutto ciò. Ma proposte, che sì, digitalmente si può mandare su Telegram. Assolutamente, soprattutto c'è il nostro Ray che è lì pronto in agguato per soddisfare, per, diciamo, come dire, per trasdurre quelle che sono le domande che vengono da fuori la radio direttamente all'interno della anche se voi non sapete di volete sapere delle cose, lui lo sa. Quindi non mi rimane che in realtà annunciare quello che è un must ormai della nostra seconda edizione, che sono questi 45 giri della Fabbri Editori. Io diciamo spesso Mondadori, invece della Fabbri Editori del 67. Ah. Sì, che lo so, vabbè, che praticamente bisogna andare a correggere tutte le puntate vecchie, ma sono tanti gli errori fatti in questa edizione, e quindi ci siamo rincoglioniti. È un grande classico di questa seconda edizione, in cui mandiamo degli estratti di 45 giri presi da questa enciclopedia L'uomo e lo spazio. È davvero molto bello, soprattutto per le voci, soprattutto per gli argomenti. Devo dire, Bimo, adesso la sentirai, che ho beccato questa puntata, diciamo, come chiamarla, questa che parla di qualcosa di cui abbiamo parlato poche trasmissioni fa. E allora la mandiamo subito, perché non vedo l'ora. Eccola. La questione dello spionaggio per mezzo di satelliti è da molto tempo argomento di discussione all'ONU. L'Unione Sovietica chiede all'Assemblea una dichiarazione unanime che vieti l'uso dei satelliti a scopo di spionaggio. La Commissione per lo Spazio ascolta la tesi sovietica esposta dall'ambasciatore cecoslovacco Hayek. Prohibits of course espionage, irrespective of where it takes place. An act which is a crime on Earth or in atmosphere. La legge internazionale, sta dicendo Hayek, vieta naturalmente lo spionaggio in qualunque luogo esso si svolga. Dunque, un atto considerato come un crimine sulla Terra o nell'atmosfera non può essere legittimato solo perché è compiuto nello spazio extraterrestre. Le opinioni sono contrastanti, addirittura opposte, come nel caso dell'ambasciatore del Perù, Belaund. Satellite sin violare lo spazio aereo, recoge notizie recoge fotografías, contemplan los territorios. Rilevamenti e fotografie di un territorio fatti da un satellite senza che avvenga violazione dello spazio aereo non sono da considerarsi crimini internazionali. Pertanto, conclude Belaunde, il principio invocato dall'Unione Sovietica non può essere accettato. Farlo sarebbe una mossa falsa. Una mossa falsa. Ecco la paura dell'America. Per questo, il 21 luglio, alle 8:21, Virgil Grissom ripercorre nel cielo la strada già battuta da Shepard. L'America vuole ancora una prova, prima del volo orbitale. Alle 8:21 il cielo era semicoperto. Per due volte il cattivo tempo aveva costretto Virgil Grissom a rinunciare. Ma questa volta le informazioni di Tyros III sono buone. C'è uno squarcio d'azzurro. Come dirà un giornalista, Virgil Grissom può essere sparato in quel buco tra le nuvole. Vi faremo ora ascoltare il momento decisivo di questa impresa. Il missile Redstone sta per alzarsi nel cielo di Cape Canaveral. Un radiocronista americano racconta da Cape Canaveral la partenza di Grissom. Ecco, sta partendo. Potete sentire il rombo dei razzi che lanciano fiamme mentre il missile si innalza nel cielo. Sentite che frastuono. È partito l'astronauta Virgil Gus Grissom per il suo viaggio nello spazio. Il secondo cosmonauta americano ha iniziato il suo volo. Per una ventina di secondi è possibile seguire da terra il razzo a occhio nudo. Subito dopo, le apparecchiature di radiocontatto ricevono la voce di Grissom. Roger. Okay, the fuel is go, about 1.25 G's. Cabin pressure is just coming off the peg. The oxygen is go. With 26 amps. Roger, pitch AA, trajectory is good. Roger, looks good here. Okay, there, we're starting to pick up a little bit of the noise. Il periscopio sta uscendo. Rotazione iniziata. Passo al controllo manuale. Sono al periscopio. Che magnifica vista di qua, ragazzi. Nelle ultime fasi del volo c'è un affievolimento nelle ricezioni radio. La voce di Grissom è confusa. Ecco, molto più chiara, la voce di Grissom subito dopo l'avventuroso recupero nell'oceano. È il momento della sua conferenza stampa. Beh, ero spaventato per buona parte del tempo. Credo che questo sia un fatto abbastanza naturale. Che cosa era? Gli chiede un giornalista. Scared. Ero spaventato. Ok. Soddisfatti? Va bene? Forse per questo Gus Grissom aprì lo sportello della capsula in un momento sbagliato. Ebbe appena il tempo di saltar fuori e la sua Liberty Bell si inabissò nell'oceano. Peccato, perché quel giorno con la capsula di Grissom andarono a fondo anche $2 milioni. Beh, questi frammenti ci servono, Bimo, anche perché da questi traiamo alcune differenze rispetto alla storia che stiamo raccontando, una storia di uno spazio iniziato negli anni 50 con alcune regole e con alcune anche contraddizioni, lo facevamo notare soprattutto nella giurisprudenza nella scorsa puntata, è che è molto cambiato in questi, diciamo, quantomeno dal 2000, dall'inizio del nuovo secolo, è tutto molto cambiato. Sì, beh, e poi se ci stiamo riferendo anche alla questione dei satelliti spia, diciamo che sappiamo come è andata a finire. Beh, sì, non solo quello, ma anche il cosmonauta americano. Beh, il cosmonauta americano è un ossimoro. Sì, penso che poi sì. La persona che sembra Enzo Tortora sia stato licenziato alla Rai su due piedi. Ma forse questa distinzione forse all'epoca era meno radicale di come la intendiamo noi giustamente oggi e che ci appare invece così importante, almeno oppure almeno potremmo vederla come un segno dell'egemonia culturale sovietica nel campo dello spazio all'epoca. Bella, questa mi piace. Vero? Questa mi piace molto. Allora, siete sempre in ascolto di Boca Chica Cosmodrome, l'unica trasmissione che parla di espansione del capitalismo turismo nello spazio. Lo facciamo in vari modi, raccontando pezzettini di realtà e pezzettini di contemporaneità. E proprio su questo, visto che la volta scorsa ci siamo soffermati con te, Bimo, su quelle che erano le novità in campo aerospaziale statunitense, proseguiamo da quel racconto per capire. Esatto, esatto, e cominciamo a vedere la parte avversa, nel senso, non abbiamo parlato sia del progetto Artemis che degli accordi nelle scorse puntate. Cominciamo a vedere come risponde il blocco che si contrappone al blocco americano, di cui noi italiani in teoria facciamo parte. Vedremo in realtà che facciamo parte, però ogni tanto abbiamo delle così, prendiamo delle iniziative, vediamola così. E quindi cominciamo a parlare del progetto concorrente rispetto a Artemis, che è la stazione lunare di ricerca internazionale, International Lunar Research Station, che andrà a sostituire l'ISS, tra l'altro. No, stiamo parlando proprio di una base sulla Luna in questo caso. Okay. Quindi è proprio l'equivalente, è come russi e cinesi pensano di andare sulla Luna, e l'idea intorno al quale stanno raccogliendo un consenso di diversi paesi, ed è in concorrenza con invece la soluzione americana. Ed è in concorrenza non solo per una questione di chi la propone, ma anche di impostazione, perché laddove vedevamo nelle scorse puntate il progetto Artemis affronta in modo molto diretto e molto evidente la questione di chi possiede le risorse nello spazio, che, come se ci avete ascoltato fino adesso, sapete essere una questione piuttosto controversa. E invece l'International Lunar Research Station è un progetto che non si occupa di questo tipo di questioni, è impostato molto più puntualmente su sulla scienza, quindi è un progetto scientifico intorno al quale si cercano dei partner internazionali per fare esperimenti anche di utilizzazione di risorse locali della Luna, però un po' glissando probabilmente sulla questione di chi le possiede. Cioè, noi possiamo, in realtà possiamo sapere benissimo come sfruttare le risorse della Luna, però va risolto il problema alla base, cioè se io e Ray individuiamo, è tutto mio, esatto, lo stesso pezzo di ghiaccio, che facciamo? Chi arriva prima se lo tiene? Tre quarti miei, lo dobbiamo lasciare lì, e quindi questo problema, insomma, va affrontato. Anche per differenziarsi dall'approccio diciamo statunitense, probabilmente questo progetto non ne parla sostanzialmente. Prima posso fare una domanda? Vai, fai una domanda. Profitto, visto che ho sentito che i cinesi in realtà stanno dicendo che almeno in teoria loro stanno aprendo il progetto a qualunque partner si voglia. Sì, sì, sì, è così. Adesso facciamo un minimo di storia. L'iniziativa è stata lanciata nel marzo del 2021 con un memorandum d'intesa tra il governo cinese e quello russo. Poco dopo si può dire che la via della seta passa per la Luna? Sì, si può dire, ma si può dire in senso stretto, come vedremo tra pochissimo. Molto bravo, bravo. Bravissimo. Bravo Cobol. Un po' elio, l'alunno Cobol ha veramente, dal punto di vista giuridico è così. O imbroglia, perché oppure veramente ha un intuito incredibile. Cinese. O è pure cinese. L'alunno Cobol è cinese. Dicevo, nel giugno del 2021 le due agenzie spaziali Roscosmos e CNSA, China Space Administration, hanno definito qual è il percorso, la roadmap per la costruzione della base lunare, e colpo di scena, nel settembre del 2021, a porte chiuse, vengono consultati appunto dalle due agenzie esperti internazionali, tra cui per esempio degli esperti italiani che aveva già l'Italia aveva già firmato gli Artemis Accords nel 2020, quindi l'anno prima, francesi che avrebbero poi firmato gli Artemis Accords nel 2022, tedeschi e olandesi, quindi la parte avversa, oltre all'agenzia dell'ONU che si occupa dello spazio. Quindi effettivamente il progetto è aperto ad altri. Ma ho proprio sentito una dichiarazione, scusa, dell'altro giorno del ministro cinese, diceva è aperto a tutti, chiunque vuole partecipare, almeno la dichiarazione ufficiale è quella. Sì, perché per differenziarlo tra l'altro dagli accordi Artemis che non sono aperti né ai russi né ai cinesi. Partecipiamo come Boca Chica Cosmodromo, lo diciamo, se è aperto a tutti noi... Ma io mi metterei in concorrenza, infatti avrò una proposta nelle prossime puntate perché nessuno dei due raggruppamenti, diciamo, soddisfa tutti i tuoi standard. Sì, mi dà grandi emozioni, noi secondo me si può fare meglio, si può fare molto meglio di così. E, a proposito di quello che diceva Cobol sulla Via della Seta, nel 2019, quindi prima che uscisse il progetto, uno dei dirigenti della China Aerospace Science and Technology Corporation, che è detta così sembra un'agenzia qualsiasi, ma è uno dei più grandi appaltatori nella corsa allo spazio cinese, propose di creare una zona economica Terra-Luna. Le zone economiche sono una parte costituente proprio della Belt and Road Initiative, che si basa proprio sulla definizione di zone economiche in tutto il mondo. E quindi la proposta è di creare una zona economica esattamente come quella della Belt and Road tra la Luna e la Terra. E quindi sì. Punti di Lagrange. Esattamente. Nei punti di Lagrange. No, penso più grande di così. L'idea è di creare una zona economica, quindi una zona di scambio sotto, diciamo, l'ombrello cinese, perché la Belt and Road Initiative, certo, è un'iniziativa cinese, e però appunto coinvolgendo anche la Luna. E questo è molto interessante, diciamo, se da una parte due anni dopo, qui stiamo parlando, non so se l'ho detto prima, del 2019, il discorso economico sarebbe un po' stato messo da parte nella definizione del progetto della stazione spaziale cinese. E invece anni prima la questione economica era affiorata nel discorso pubblico cinese. Perdonatemi, da quello che mi risulta la cosiddetta Via della Seta fa proprio diventata parte della Costituzione cinese, quindi uno dei principi delle come la ricerca della felicità nella Costituzione americana. La Via della Seta fa parte dei principi che fondano principi fondanti, diciamo, di quello che significa adesso la... Sì, io tra l'altro direi anche rispetto alla puntata precedente, si porrà sicuramente un problema anche di autonomia della Luna, lo dicevamo la volta scorsa. C'è chi inizia a pensare ad un sistema multiplanetario, anche economico, e quindi una ONU interplanetaria, di cui, anche se la Luna non è proprio un pianeta, ma diciamo comunque un corpo roccioso, un giorno potrebbe, tra l'altro probabilmente la Luna sarà la prima, potrebbe rivendicare anche una propria autonomia. Chissà a questo punto le legislazioni, ma anche appunto queste vie economiche che si aprono rispetto alla Terra, se subiranno degli squilibri e dei reequilibri da questo punto di vista. Diciamo, se i cinesi si comporteranno come si sono comportati ultimamente con chi cercava di rendersi autonomo, io non la vedo molto bene all'inizio, diciamo, sarà piuttosto cruenta, però vedremo, chissà se saremo due Cine, esatto, tre perché già ce ne sono sì. L'altra l'avranno già inglobata probabilmente, anche se avete visto oggi le dichiarazioni del primo ministro, del presidente di Taiwan, insomma, non sono per nulla rassicuranti. Bellicose. Molto, bellicose. Molto. Tu, Bimo, avevi qualcosa da dire su questa? Sì, diciamo, ancora un altro paio di notiziole. Sempre a proposito dello sfruttamento delle risorse lunari, l'oggetto che dovrebbe in qualche modo introdurre le tecnologie che saranno utilizzate nella stazione, verrà lanciato nel 2028 ed è, sarà una delle, sarà la Chang'e 8, la 6 sta per arrivare sulla Luna, e porterà degli esperimenti di sfruttamento delle risorse naturali lunari. Tutto il sistema diventerà pienamente operativo dal 2036. Con grandi ritardi. Va bene, insomma, ci siamo e secondo me una prima corposa parte l'abbiamo coperta. A questo punto io, Bimo, so che ti devi prendere il tuo tempo, te lo faccio prendere, ma lancerei un pezzo musicale. E siamo di nuovo in diretta su Bocca Chica Cosmodrome, l'unica trasmissione che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio. Bimo, cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato il caro vecchio Mika Vainio in un pezzo che si chiamava Scale, dal suo album Kilo del 2013. Ah beh, insomma, siamo tornati un po' dietro. Roba seria. Sì, sì, sì, un pilastro. Spero che l'abbiate sentita a un volume inumano. Abbiate compromesso la stabilità del posto dove abitate. Se non l'avete fatto, potete comunque. Ve lo rimetto. Voi oppure potete accedere alle registrazioni. O, esatto. Come esatto. Si suol dire. E, sul sito forteprenestino.net, nella slot di Radio Forte, dove troverete le dirette, ci sono altre piccole slot. Sono i vari programmi Bocca Chica Cosmodrome e troverete tutte le trasmissioni finora andate in diretta. Adesso è un momento sempre molto emozionante. emozionante per noi, perché è una rubrichina con sigle, tanto di sigletta, che ha sempre avuto la sua sigla dalla sempre, notte dei tempi. Sempre, sempre. Questa piccola lamentela non lo diremo verso chi è rivolta, ma insomma lo capirete sicuramente. Quindi il nostro agitatore culturale preferito, nonché illustratore, fumettista e intellettuale, agitatore, questo l'avevo già detto, Andromalis, Clatubara Danicto, la sua rubrichina di fumetti spaziali underground. Latu, Barada, Nicto. Latu, Barada, Nicto. Latu, Barada, Nicto. Latu, Barada, Nicto. Clatu, Barada, Nicto. Nel 1987, sulla rivista di fumetti Comic Art, esce a puntate Roy Mann, scritto da Tiziano Sclavi, divenuto poco tempo prima famosissimo con Dylan Dog, e disegnato da Attilio Micheluzzi, uno dei grandi maestri del fumetto italiano d'avventura, appartenente alla straordinaria generazione di Battaglia, Pratt e Toppi. Anche Roy è uno sceneggiatore di fumetti, ma vive a New York negli anni 30 e lavora per il Signor Wonder, che possiede un grande quotidiano che ospita per l'appunto pagine di fumetti d'avventura e fantascienza. Ogni mattina Roy si prepara il caffè, ma quando improvvisamente la macchinetta esplode, entra in assurde dimensioni oniriche che più non si distinguono dalle storie incredibili da lui stesso sceneggiate. Così il cinema e i fumetti di fantascienza anni 30, da Brick Bradford a Flash Gordon, c'è anche un perfido signor Ling del tutto uguale a Ming di Mong, affollano la nuova vita avventurosa di Roy. Il ritmo aumenta e la centrifuga immaginifica va su di giri. L'esercito degli Stati Uniti d'America invade New York e abbatte la Statua della Libertà, così che le citazioni dal dottor Stranamore di Kubrick si mescolano al pianeta delle scimmie e all'inquietante profezia dell'abbattimento delle Torri Gemelle, ma in chiave complottista. Indiana Jones si mixa e remixa con l'esercito delle 12 scimmie, che però uscirà solo nel 1995. E poi c'è la conturbante Lara, che in un modo o nell'altro è sempre nuda, calda e disponibile per l'eroico Roy. Ovviamente nulla è come sembra, e non lo è mai. Ogni scatola cinese che si apre offre una nuova spiegazione dell'assurdo meccanismo narrativo, fino al rovesciamento totale dell'assunto precedente. Scopriremo così che Roy è un androide, che magari sogna pure pecore elettriche, e che è Lara, l'ultima creatura umana del pianeta Terra ormai scomparso, a scrivere tutte le storie e ad inscenarle nello spazio profondo utilizzando migliaia di inconsapevoli androidi. Ma che importanza ha? Quel che conta è che la meccanica della narrazione muove il mondo, anzi i mondi, infiniti e possibili che siano. Beh, grazie al nostro Andromalis che ci informa sempre, sempre su... Sento, no. Continuo a sentire voci. No, è Andromalis che non aveva finito. Ah, Andromalis non ha finito. l'abbiamo interrotto troppo presto. Vogliamo lo riavvolgiamo. Vogliamo farlo finire. Magicamente, via. Androidi. Ma che importanza ha? Quel che conta è che la meccanica della narrazione muove il mondo, anzi, i mondi, infiniti e possibili che siano. Si dice che inizialmente si era pensato come disegnatore a Magnus, lo dico così a margine, tanto per aumentare infinitamente le possibilità di scenari ed evocazioni di Roy Mann. Beh, io troppo ansioso sicuramente di entrare, ma Andro con delle pause teatrali. Sì, veramente, veramente. Non è radiofonico, bisogna spiegarglielo. Sì, sì. Vabbè, comunque rimane sempre il nostro mito in assoluto. Grazie, Andro, di essere con noi. Allora, e scusaci. Scusaci per queste interruzioni, sì. Anche in differita lo interrompiamo. Allora, io prima di andare avanti con la nostra storia di oggi che abbiamo messo in piedi e che spazia da un cosmo all'altro, direi di tornare un po' indietro nel tempo alla puntata precedente. Presidente, la volta scorsa avevamo parlato di asteroid mining, o mining, ci direbbe il nostro Ray. E io mi ero dimenticato in realtà di portare un pezzettino secondo me molto significativo che abbiamo, diciamo, portiamo a posteriori, però ci piace farlo sentire. Esatto. Non dirò neanche da che film è stato tratto, perché chi lo vuole scoprire si deve iscrivere al nostro canale. Facciamo giusto, così, giusto. Così, se no non ha senso, Allora, andiamo con questo contributo bellissimo. Lei conosce gli asteroidi, signor Kemp? Sono i resti di un pianeta esploso che non si è mai formato. Alcuni grandi come piccole lune, altri come granelli di polvere, oltre a tutte le dimensioni intermedie. Centinaia di migliaia di questi corpi vagano continuamente intorno al Sole nelle più svariate orbite. Moltissimi senza nome, senza storia. Gli orfani del sistema solare, si potrebbe dire. E lei vorrebbe adottarne qualcuno? Non si può impiantare una miniera su un asteroide, dato il costo enorme per portarvi le attrezzature e le provviste. Non conviene mai. Non lavorarvi sul posto, ma scaricarlo sulla Luna. Scaricarlo? Lei non può farlo precipitare qui sopra perché la legge lo proibisce. Già, qualora un pilota inesperto lo facesse sconsideratamente cadere su Moon City. Ma noi non facciamo le cose approssimative. Le metteremo a disposizione i risultati di 2 anni di studi e di esperienze ed affideremo l'impresa al più abile e spericolato fra i piloti spaziali. Che c'è di tanto speciale su questo particolare asteroide? Dato che lei lo verrebbe comunque a sapere, tanto vale che glielo dica subito. Whitson. Troppo piccolo per avere un nome o un numero, questo asteroide venne fotografato per la prima volta nel 1988, quando passò vicino alla Terra. Ma non si fecero ricerche né si tracciò la sua orbita. Fino a un paio di anni fa. Questo film è stato girato dal reparto astronomico del signor Hubbard. Le dimensioni approssimative sono 18 metri per 10 per 10. La sua massa si aggira sulle 6.000 tonnellate. Sa leggere gli spettrogrammi, signor Kemp? Quelli più comuni ci riesco. Quello mi sembra alluminio. Molto bravo. Infatti è piuttosto simile all'alluminio, ma un alluminio che è stato compresso e scaldato nel cuore di un pianeta esploso nello spazio centinaia di milioni di anni fa. Qual è il nome scientifico? Una forma cristallizzata di corindone, cioè sesquiossido di alluminio. Già. Zaffiro, in parole povere. Zaffiro. Sono semplicemente 6.000 tonnellate di una pietra preziosa, lo zaffiro. Ecco cosa c'è di speciale in questo asteroide. Allora? A prima vista si direbbe un'ottima speculazione, però è contro la legge. La ringrazio per il whisky. Eh beh, era dovuto. Tra l'altro è un film preveggente, perché si tratta di un film che non citerò, ma del 67 addirittura, quindi questi argomenti non erano assolutamente ancora presi in considerazione. Pre-terre rare, direi anche. Pre-terre rare, pre-asteroid mining. Esatto, sì. Ma pre-allunaggio. Eh sì. Addirittura anche, pre-allunaggio. Sì, film inglese, però metteremo il pezzettino... nello specifico online, per così vi gusterete anche l'immagine. È molto tenero questo fatto di immaginarsi pietre preziose che cadono sulla Luna. Grandi asteroidi fatti di oro. Sì, esatto, esatto. Una pepitona d'oro. Sì, queste pepitone o questi diamantoni che cadono dallo spazio. E vabbè, però è molto interessante anche il fatto che la diceva uno dei protagonisti che non sarebbe stato conveniente installare proprio una stazione mineraria sull'asteroide. Insomma, interessante, perché la soluzione era un po' radicale, insomma. La soluzione un po' radicale, però tra l'altro era una delle soluzioni proposte da Elon Musk per portare l'acqua su Marte, far schiantare degli asteroidi su Marte. Eh beh, non mica male. No, non mica male. Chissà, dovremmo fare una puntata anche sulla terraformazione, sulle troppe puntate dovremmo fare su tanti argomenti, ma diciamo anche sui metodi di terraformazione, esatto, da quelli più cruenti, esatto, e irreali a quelli un po' più democratici. Soprattutto diciamo, quelli più cruenti e irreali, io sono i più interessanti secondo me. Notizia di qualche giorno fa, molto interessante, che si ricollega anche un po' alla fantascienza, la scoperta di un team di scienziati, più che la scoperta, insomma la verifica di un team di scienziati, di almeno 7 stelle all'interno del nostro sistema solare, quindi nella Via Lattea, che rispondono a determinate caratteristiche. Queste caratteristiche non sono caratteristiche naturali per questi astri, o almeno si suppone possano non esserlo, anche se le spiegazioni possono essere molteplici, però il loro comportamento, che è un comportamento in parte pulsante in relazione ad alcune frequenze in particolari, potrebbe rispondere a quelle che sono delle regole immaginate negli anni 60 dall'astrofisico Dyson, che prenderanno poi il nome di sfere di Dyson. La sfera di Dyson è sostanzialmente una mega struttura, un'enorme struttura, dimensioni inimmaginabili, sì, da questo punto di vista. Mega non rende l'idea. No, però vengono classificate all'interno di questo tipo di costruzione, che dovrebbero avvolgere completamente un astro. Ecco, se noi immaginiamo per esempio una sfera di Dyson intorno al nostro Sole, dovremmo immaginarci questa sfera di Dyson con un diametro di una unità solare, cioè quindi della distanza dalla Terra alla Luna, quindi una sfera che ha appunto un diametro che ingloba il Sole, che appunto lo eccede della distanza che separa il Sole dalla Luna. Che cosa sono queste strutture? Beh, in realtà sono dei congegni geniali da questo punto di vista, anche se molto difficili da costruire. Dyson, ad esempio, per dare un'idea, cercò di immaginare se nel nostro sistema solare esisteva abbastanza materia per costruire una sfera di Dyson. Cioè, probabilmente Dyson, non ci sarebbe abbastanza materiale per costruire. Dyson lo lasciavano lì a fare questi studi, a fare questi calcoli. No, ma era tra l'altro un astrofisico molto serio, però ma non che non sia seria questa idea, l'idea è molto seria, è l'idea appunto di avvolgere quasi completamente o completamente un astro, così da poterne sfruttare completamente l'emissione e trasformarla in energia. In energia pulita. In energia pulita, assolutamente. E in realtà ci sono vari modi in cui la sfera di Dyson può essere immaginata e costruita, non deve essere necessariamente una sfera che chiude completamente l'astro. Diciamo, le due modalità sono appunto quella della chiusura totale, proprio con una struttura con del materiale capace per esempio di lasciar fuoriuscire alcune frequenze tipo gli infrarossi, ma di trattenerne altri, oppure ci sono sfere che in realtà sono sfere semiaperte, quindi sono strutture che non chiudono completamente l'astro, lascerebbero passare comunque parte dell'energia irradiata e che ne assorbirebbero comunque una grande quantità rispetto a quella che generalmente irradia e copre i corpi celesti che girano intorno alle stelle. Ora, perché ci interessano questi sette astri? Intanto perché lo stesso Dyson ci dice che praticamente la scoperta di corpi che si comportano come si potrebbero comportare degli astri coperti da sfere di Dyson sarebbero sicuramente il segno di una presenza di vita aliena nell'universo, e siccome le tracce sono difficili da scoprire, delle mega strutture di questa portata sicuramente sarebbero più facili da individuare. E quindi queste sette stelle individuate in realtà ci potrebbero dare forse la prova che nel nostro sistema solare almeno nella nostra galassia stelle nella nostra galassia, e ci potrebbero essere almeno sette civiltà in grado di mettere in piedi queste mega o anche mega una che ha sette stelle, o una che sì, infatti questa è un'altra delle idee una che, volta che costruita. Io non ci tengo molto ad incontrare, se non so come la pensate voi. Beh, magari però il Sole nostro ce lo lasciano, anche perché generalmente le sfere di Dyson dovrebbero interessare stelle un po' più piccole della nostra nana gialla, ma le nane rosse potrebbero essere più interessanti. dal punto di vista, anche perché sono meno grandi e in realtà hanno una radiazione un po' diversa da quella che... Ma magari si incapricciano di qualcos'altro, non solo del nostro sole, tipo, certo, che ne so. Certo. Vogliono tutti... Certo, se pensi che però si possano appropriare del nostro sole e si mettano semplicemente a cercare di appropriarsi delle nostre piccole risorse, sarebbe forse una contraddizione. Se loro si appassionano, che ne so, alle noci di cocco... O ai gatti, ai nostri gatti. O ai gatti, lì sono problemi. Perché... È molto, molto probabile. Io, diciamo, a parte questa notizia che trovo molto interessante e chissà quando mai potremmo verificarla. Speriamo mai. Ecco, diciamo, questo è il lato pessimista della trasmissione. Sì, assolutamente. Lo rivendico. Sentenziato. La cosa che mi piace e vorrei sottolineare è questa, cioè che esiste sicuramente una mutazione di paradigma scientifico negli ultimi 10, 15, 20 anni. Prima, un tempo, la scienza, quella dura, quella seria, con difficoltà avrebbe parlato di civiltà aliene, insomma qualsiasi astrofisico si fosse messo a blaterare di questi argomenti sarebbe stato sicuramente emarginato dalla comunità. Oggi in realtà il discorso è un po' più sviscerato e anche un po' più lasciato libero di fecondare altre idee. Allora, le ipotesi sono due, diciamo, l'ipotesi non marxista, le due ipotesi possono anche coesistere, diciamo, non per forza. Una prima ipotesi è intanto che lo studio degli esopianeti, cioè lo studio di quei pianeti che ormai da 20 anni avviene al di fuori del nostro sistema solare, pianeti che sono per la maggior parte delle volte sono assolutamente invisibili, ma che vengono rilevati in modo indiretto, per esempio attraverso i transiti, quindi attraverso l'azione gravitazionale che producono sulle stelle che circondano, ha aperto nuove frontiere. Noi, attraverso appunto gli spettrogrammi, e la sfera di Dyson si scoprirebbe proprio attraverso uno spettrogramma, e cominciamo a conoscere corpi celesti con dei funzionamenti e con delle strategie come dire esistenziali, che possono essere artificiali o meno, ma che sono completamente diverse da quelle che noi potevamo immaginarci. La stessa diffusione di esopianeti nella nostra galassia non era immaginata, non si immaginava ci fossero così tanti pianeti statisticamente attorno alle stelle e con caratteristiche così tanto diverse da quelle del nostro sistema solare, tanto da far sì che il nostro sistema solare sia anomalo rispetto alla maggior parte dei sistemi solari, che ad esempio spesso come dire all'interno ospitano delle stelle binarie, quindi già una sola stella è già una cosa piuttosto rara, così come sono rari i giganti gassosi verso l'esterno del sistema solare, che invece in tanti sistemi solari alieni orbitano molto più vicini al loro soli, vengono chiamati Giove caldi sostanzialmente. Un altro aspetto, quello diciamo forse una chiave di lettura un po' più marxista, vorrebbe che io mi posso immaginare, che nel momento, e che è anche molto più come dire legata alla nostra trasmissione da questo punto di vista, che dal momento in cui il capitale intravede nello spazio una fonte di valore, una fonte di creazione di valore, deve iniziare ad intravedere all'interno dello spazio una gamma e una varietà di amici e nemici con cui può entrare in relazione. L'idea che proponevamo per esempio l'altra volta dell'ONU multiplanetaria viene da parte liberale, per dirne una, viene dal pensiero anarchico marxista, e questa è come dire, quindi l'idea già di inglobare all'interno di un'ONU una sorta di alleanza tra pianeti farebbe parte di questa sorta di capacità di creare immediatamente gruppi di pressione di potere e cortine di ferro. Dall'altra deve nascere necessariamente l'esigenza di produrre un nemico, e in questo rientra anche la notizia di ormai un po' di anni fa della trasformazione dell'acronimo UFO in UAP, no? Diciamo, tendenzialmente l'UFO non dovrebbe essere più utilizzato come acronimo perché è troppo esotico, ma questo mutamento non viene da ufologi, diciamo questa esigenza di mutare l'acronimo non viene da ufologi o da persone legate al mondo della ricerca extraterrestre, ma viene proprio dal Senato statunitense e viene in conseguenza di una serie di avvistamenti e di fenomeni registrati sulla Terra, di avvistamenti che appunto a un tempo sarebbero stati chiamati UFO. C'è una legge negli Stati Uniti che proibisce la parola UFO. Esatto. e che praticamente sì, perché è troppo esotica da questo punto di vista, e che ad un certo punto ha creato nel, appunto proprio nei senatori statunitensi l'esigenza di creare ulteriori ulteriori gruppi di ricerca sul fenomeno, in quanto questo fenomeno è iniziato ad essere interpretato come un fenomeno sicuramente ostile, non si sa di che natura, ma probabilmente ostile agli Stati Uniti. Diciamo, fondamentalmente. E quindi alleato con i nemici degli Stati Uniti. Alleato con qualsiasi altro tipo di UFO cinesi. Sì, non allineati, diciamo. Quindi questa potrebbe essere la spiegazione forse un po' più... Anzi, UAP cinesi, scusa. Più, se vogliamo, più riot, più marxista, del fatto che in qualche modo la scienza ha mutato atteggiamento. Io vorrei ricordare molto velocemente solo altri due episodi molto, molto recenti. Uno è quello di Avi Loeb, il famoso astrofisico israeliano, che in realtà ha praticamente rovinato la propria carriera interessandosi molto di quello che era che è stato il fenomeno di Oumuamua. Spero di averlo detto in maniera giusta. Sicuramente Ray Max ha un amico hawaiano che gli telefonerà, gli se una... c'è un hawaiano all'ascolto. Max è hawaiano, esatto, che dirà no, non è stato pronunciato, assolutamente ripronunciatelo, se c'è un altro hawaiano all'ascolto, esatto, che è questo visitatore interstellare che qualche anno fa è entrato nell'orbita del nostro Sole, e che era un oggetto interstellare sicuramente proveniente da altri sistemi solari, e che Avi Loeb continua a sostenere essere probabilmente un oggetto... Un veicolo. Sì, un oggetto comunque non, diciamo, non naturale ma artificiale, grazie a una serie di statistiche nel suo peregrinare e nel suo attraversare il nostro sistema lo solare. Hanno fatto a fettine. L'hanno distrutto, sì. L'hanno distrutto. Io ho letto anche i suoi due libri su Oumuamua e sono molto interessanti, ma lui è un po' scotenna, diciamo, da questo punto di vista. L'altra cosa che mi piace sottolineare è la ricerca di qualche anno fa, in realtà non troppo accettata dalla comunità della comunità scientifica nel totale, una ricerca di stampo esobiologico sul periodo cambriano, sull'esplosione della vita nel periodo cambriano, in cui una trentina di esobiologi sostengono, sulla base di una serie di prove, che probabilmente questa esplosione è avvenuta grazie alla contaminazione della vita terrestre già presente sul nostro pianeta allora, e un retrovirus extrasolare che avrebbe prodotto soprattutto, come anello mancante, nella categoria degli anelli mancanti, il passaggio dalla seppia al polipo. Quello è un esempio che loro hanno. Ecco, la ricerca è molto interessante, e anche qui appunto si inserisce in maniera molto soft quella che è l'idea di una contaminazione extraterrestre. Quindi insomma volevo un po' sottolineare questo punto, perché secondo me... Quindi per fare... Allora ci sono... Cioè... almeno una civiltà con delle sfere di Dyson che ha mandato un veicolo interstellare nel nostro sistema solare e ha provocato la nascita del polpo. Esatto. Sì, il polpo, tra l'altro, adesso, il polpo. Sì, sì, adesso, il polpo. Adesso ci faranno a fette pure a noi. Siamo liberi da queste cose. Per fortuna, una specie che va protetta, tra l'altro. Sì, sì. Esatto, esatto. Sì, sì. Va bene, insomma, allora, dopo avervi dato tutte queste suggestioni, che poi magari vi mettiamo un po' di link sempre sul nostro Telegram, vi mandiamo un po' di musica, noi ci riorganizziamo, rientriamo nei ranghi, e poi penso Ray con la sua sigletta e con la sua bellissima rubrica. Chissà la sigletta, chissà. Va bene, intanto pezzo musicale. Yeah. Bentornati quindi all'ascolto del Bocca Chica Cosmodrome. Nel frattempo sentiamo musica che sfuma, sì, e che musica che viene, che viene tagliata brutalmente. Ma non va sfuma. Bene. Ma in realtà abbiamo sbagliato un paio di passaggi, ma stiamo diventando più bravi. Sì, allora, questo in realtà qui è che il lettore è troppo piccolo. No, non è il lettore, è che non manda solo un pezzo, ma manda tutto l'LP e quindi... Ah, vabbè, allora è ancora più complicata, esatto, la cosa. Siete sempre, avrete capito che siete sempre in ascolto di Bocca Chica Cosmodrome, l'unica trasmissione nell'universo che parla di espansione capitalistica nello spazio, anche perché forse il capitalismo è solo su questo pianeta, solo su questo sistema solare, e quindi siamo gli unici a parlarne, gli unici a lamentarcene. E vi ricordiamo sempre che siamo soli e in diretta dal centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino di Roma, sulle frequenze di Radio Forte. Bimo, che cos'era? Cosa abbiamo sentito? Questi erano gli A-Frames, un gruppo che ci parlava dai primi anni 2000, adesso non mi ricordo di che anno fosse precisamente l'LP intitolato 2. Vabbè, quindi? E quindi adesso entriamo magicamente... Ciao Marziano! Questo Cobalt te la sei chiamata. Me la sono cercata. Te la sei cercata. Non è una vendetta per Baglioni, dico Baglioni. Avevamo detto di ritornare ogni tanto sugli argomenti della puntata precedente. Ciao Marziano, aveva molto pingitore, molto coinvolto, sì, pingitore. Ma questo è peggio. Questo è l'inizio della canzoncina. Per pudore non abbiamo mandato, abbiamo deciso di non mandare la canzoncina cantata da Pippo Franco. Pensa che io speravo che finalmente tu avessi la sigletta, dico, e questa è una pseudo, questo è un tentativo di sigletta, è un inizio, un embrione di sigletta. Andiamo, lo accetto con un ghigno. Sì, sì, esatto. Se tu sapessi che scriveva la canzoncina di Dio Marziano, tra cui Dimitri Gribanovski, sodale di Pingitone nel scrivere canzoni antisovietiche tipo Il ragazzo di Buda. E questa era ovviamente la voce di Pippo Franco. Allora, buonasera ascoltatrici, ascoltatori, Bimo. Buonasera. E i Cobalt Pong. È arrivato in diretta un messaggio da un'ascoltatrice di Montebelluna, Francesca, che ha rivendicato almeno due sfere di Dyson. Ha detto: no, Bimo, non siete rincoglioniti, è che dalle 13 di oggi la luna è entrata in Sagittario. Ah, ecco. E questa cosa penso che spieghi. Ah, ecco, sì, vedi, ecco cos'era. Parecchie cose. Quindi non siamo rincoglioniti, è la luna in Sagittario. Cobalt, vedo che è d'accordo con questa, è particolarmente. Se lo d'accordo. Sentiva anche lui, ma non se sapeva cosa fosse. Esatto. Direi che mi sono rotolati, se non fosse. Esatto. Questa cosa. Non si dovrebbe dire, ma in questo caso veramente. E comunque, vabbè, Francesca di Montebelluna non si offenderà per questo. Invece Nestore da Ronciglione chiede di parlare fondamentalmente sulle pulizie spaziali. Quindi dopo i trenini spaziali della puntata precedente si ricollega a qualcosa di cui Bimo ha parlato in due o tre puntate fa. Sì. La conferenza in realtà, esatto, sul debris spaziale su cui siamo andati sia... Ma è stato messo in onda? Cioè c'è il podcast di questo... Io non ho ancora... Diciamo che ho anche un po' smesso di cercarlo, okay. Sarò completamente onesto. No, allora, non dobbiamo cercare. Comunque voleva sapere, ok, ci sono questi detriti spaziali, è un problema... Che cosa si sta facendo? Ci sono dei progetti? Moltissimi progetti. Ok, puoi fare qualche esempio? Beh, c'è un ufficio dell'ESA che si occupa specialmente di questo, di questi problemi, quindi, e in primo luogo di censire i... non so se milioni di frammenti che ruotano tanti intorno alla Terra. Comunque tantissimi e di proporzioni anche molto, molto piccole. Grandi o molto piccole, no? Sì, se lo sbaglio. Sì, grandi, non gigantesche, però comunque insomma velocissime. Considerevole, sì. E, quindi da una parte ci sono dei progetti per censirli, tutto il mondo poi tra l'altro. C'è la Cina ad esempio che ha da poco aperto un osservatorio. Che ne produce tantissimo. Ha aperto un osservatorio in Africa proprio esclusivamente per il controllo dei detriti spaziali, quindi... visto che è un grande produttore di... quindi in nell'opposizione che dicevamo anche prima tra, certo, noi da una parte e loro dall'altra, anche, esatto, loro si stanno organizzando, esatto, esatto, anche perché abbiamo detto il fatto che ci si organizzi è inevitabile, quindi è soltanto una questione di come e di quando, ma non è una questione di se. E dopodiché ci sono anche altri, ci sono dei progetti sia accademici sia privati, proprio di distruzione di questi detriti. Quindi un detrito va riconosciuto, raggiunto, agganciato e poi distrutto nell'atmosfera. Dicevamo quando abbiamo parlato di detriti spaziali che la distruzione nell'atmosfera porrà sicuramente dei problemi e di problemi di sostenibilità. Scopriremo molto probabilmente che per distruggere tutti i detriti che abbiamo prodotto e soprattutto produrremo nei prossimi anni, e quelli che produrremo nei prossimi anni saranno enormi e saranno tantissimi, porrà un problema all'atmosfera. Nessuno ancora ha una risposta, però è anche abbastanza, secondo me, io sono il pessimista, ormai io rivendico questo mio ruolo e sono abbastanza convinto che la scala richiesta di distruzione di detriti porrà dei problemi. Quindi diremo belli tempi in cui c'era solo la pioggia acida. Esatto, no, esatto. Quelli saranno tempi bellissimi. In quella conferenza, già mi mancano. Io in quella conferenza ho visto progetti di reti spaziali per catturare, sì, debris, che mi hanno fatto diventare ancora più pessimista di Bimo. E per cui... ci sono anche delle aziende, ovviamente. Adesso così non mi ricordo. Ci sono, diverse, ultimamente se ne parlava, che stanno per lanciare dei dimostratori di, appunto, penso un'azienda giapponese, di veicoli spaziali che agganciano dei detriti. Nel caso particolare di questo oggetto giapponese, aggancerà un primo stadio di un razzo giapponese che è in orbita intorno alla Terra da decine di anni, per poi distruggerli sostanzialmente, bruciandoli in atmosfera. Quindi, se ho ben capito, come al solito, gli Stati Uniti producono detriti e i giapponesi vanno lì e puliscono. Un po' nella loro storia. Diciamo che negli ultimi... giocavo, non l'avete presa troppo sul serio. No, beh, diciamo che per produrre detriti bisogna mandare in orbita degli oggetti. E oggettivamente gli Stati Uniti, specialmente negli ultimi anni, sono insuperabili da questo punto di vista. Pensate che tutte le migliaia di satelliti che Musk sta mettendo in orbita diventeranno prima o poi dei detriti. E quindi, sì. Chi meglio dei giapponesi? Chi meglio dei giapponesi? I lussemburghesi, forse. Forse faranno meglio loro. Sapete che in tutto ciò non abbiamo detto il nome, il nome della rubrichina. La rubrichina che si chiama Cuore. Chiama Ciao Marziano. Prima era la posta del cuore, poi Cuore Matto. Da adesso Ciao Marziano. Ciao Marziano. Non male. Viene la voce di Pippo Franco. Due volte. Ciao Marziano. Non male. La prossima, se non è, ti passiamo la canzoncina. Poi è arrivato un altro spunto in realtà di attualità dalla chat. Ha segnalato che proprio oggi a Bruxelles si è svolto, non so se è finito, non ho visto poco fa, ancora non risulta notizie, una riunione ad alto livello per la creazione della costellazione di satelliti europei Iris o Iris, chissà, Iris 2, Iris in italiano, in greco, Iris. Diciamolo in italiano. Iris. Che in realtà però è un acronimo. Irise, acronimo di Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Fantastico. La dobbiamo pure tradurre? Fantastico. No, speriamo. È bello che dentro ci sia il pezzo di Lou Reed. C'è anche sì, Satellite of Love. Esatto. Che in realtà parla. Ci sono due pezzi di Transformer che parlano di satelliti in orbita, se proprio vogliamo. Comunque si parla di probabilmente centinaia di satelliti europei che dovrebbero essere messi in orbita entro il 2027. E se Ariane non avverrà mai, e se non riuscirà a partire Ariane, potrebbe essere chiesto a Elon Musk di usare un vettore. No, in realtà anche se Ariane partisse, si dovrebbe non so quanti dei primi voli di Ariane siano già stati prenotati per un'altra mega costellazione, quella di Amazon. La cosa ironica è appunto questo progetto nasce anche per essere autonomo, indipendente, di fatto anche contrastare questa. Comunque diciamo ma perché Jeff Bezos non si rispedisce da solo? Scusa, c'ha i mezzi? No, non ce li ha. Blue Origin non c'ha i mezzi? No, non ha, no, ha un sacco di bellissimi razzi su dei bellissimi pezzi di carta, ma non funziona. Razzi, però è no. Il progetto di costellazione di satelliti. Vabbè, sì. Approfondiremo. Okay, praticamente hanno comprato, adesso velocissimamente una parentesi, hanno comprato voli da tutti i... tutti quelli che hanno dei razzi da spedire, tranne SpaceX, e ovviamente. Okay. E quindi hanno praticamente intoppato. Beh, Arianna adesso ha un altro problema con la Guyana francese. Ah beh, certo. lì c'è un altro problema con il Venezuela, insomma si aprono vari scenari, quindi anche detto che Ariane verrà ripristinato e sono in ritardo di non si sa quanti anni, si apre il problema del luogo dove lanciarlo, perché fino a qualche anno fa lì era tranquilla la situazione, ma ora non lo è più. No, decisamente no. Nell'attualità, scusa, ci pensa Macron. Scusa, Bimo, il problema è molto più terra, cioè che il budget era stato previsto, un budget mi sembra di 8 miliardi inizialmente l'anno scorso, approvato dall'Unione Europea ai più alti livelli, e ultimamente invece la Germania ha obiettato, il costo sarebbe aumentato a 12 miliardi per vari motivi, e pare che pare ufficiale che la Germania ha obiettato e vorrebbe uscire dal progetto, e quindi diciamo dare un veto di fatto al progetto, a un progetto già iniziato, già in uno stadio potenzialmente avanzato. Ah, maledetti tedeschi. I tedeschi parsimoniosi, e che tedeschi in completo stato confusionale, secondo me, su tutti i campi. Esattamente, su tanti campi in questo momento stanno sembrando. Io vorrei far notare che Remax da una rubrichina di domande ormai si è preso uno spazio di commentatore. Sperando che nessuno se ne accorgesse. No. Ho lasciato spunto che voi vi lasciaste. Com'era, chi era Norberto? No, chi era la domanda? Questa viene da diverse, vabbè, confermiamo, sì, confermiamo in tutto quello. Dunque, che è stato... cosa succederà di questa galassia di centinaia di satelliti europei, a saperlo diventeranno prima o poi tutti dei detriti. Questo è sicuro, e questo ci spinge a sentire il prossimo brano. Coffee, 500 cigarettes, 1,000 miles of highway, and I ain't forgot her yet, but I keep on moving, I keep moving down the line. Ain't nothing in my mirror, just a cloud of dust and smoke. What do you expect when some old trucker's heart gets broke? Yeah, trucker's hearts get broke. Them big wheels of rubber gonna rubber off of my mind. I'm a highway junkie, I need that old white line. 10 miles out of Nashville, I was done 101. State boy pulled me over, he said, "Where's the fire, son?" Thank you. Allora, bentornati di nuovo all'ascolto di Bocca Chica Cosmodrome. In realtà non ce ne siamo andati nonostante il country, ma Ray Max, cosa ci hai fatto ascoltare? È una dichiarazione di amore per Cobble Pong ed è uno dei film che a noi piacciono tanto, cioè Space Truckers. Ah, questo beh, è uno dei brani della colonna sonora di non lo ricordavo, ne avevamo, ne avevamo parlato esatto, la volta scorsa. Quello sì, con i maiali quadrati e il grandissimo Dennis Hopper. E il brano si chiama Highway Junkie, cioè in realtà tossico d'autostrada, perché parlandosi di camionisti spaziali, la colonna sonora è composta o da brani assolutamente dimenticabili, orchestrali, pseudo Star Wars, oppure da brani country, cioè quello che nell'81 avrebbe ascoltato un camionista americano. L'autore è Chris Knight, un kentuckiano diventato cittadino onorario del Texas. In realtà questo brano è stato garanzia usato di qualità. Garanzia di qualità. In realtà è un brano utilizzato in tantissime, in diverse colonne sonore, che ha venduto quantità di dischi pari quasi ai rifiuti spaziali. Questo Chris Knight ha fatto i soldi con... A me non dispiaceva, mi ha un po' ricordato, probabilmente non c'entra niente, ma Convoy di Sam Peckinpah. Quello Peckinpah o Peckinpah, io resto quella è una domanda difficile. Okay. Convoy, guardatevelo. Più pazzo, più stiamo pazzo di Remax, stiamo parlando di roba serissima. Bene. Quindi comunque Chris Bene. Knight ottimo. Dopo Baglioni anche il country ottimo. Della radio. E poi Burt Reynolds. Abbiamo e poi esatto. E Dolly Parton. Esatto. Allora, indiscutibile Dolly assolutamente. Parton. Allora, abbiamo sgarrato di un pochino, ma l'abbiamo fatto con grande piacere, anche perché siamo in vostra compagnia, lo sappiamo che siete e ci pagano gli straordinari. Siete tanti e frementi. Beh, avete ascoltato la 8ª puntata della 2ª stagione di Bocca Chica Cosmodrome, l'unica trasmissione nel cosmo che si occupa di espansione del capitalismo contemporaneo, anche del neoliberismo se volete. Noi torneremo in diretta la prossima settimana, sempre alle 21, sempre di giovedì, con nuovi argomenti. Io vi sempre ricordo... che durante la settimana non incontriamo i padroni delle sfere di Dyson, nel qual caso non ci saremo. Sì. Ma non lo so, come, ma invece magari ci potrebbe non succedere. Potremmo diventare i loro amati cuccioli, invece, chissà. E... diventeranno amici di ChatGPT. Esatto. No, a me non resta che ricordarvi il nostro Telegram, è facile, Bocca Chica Cosmodrome, su cui c'è una vivace comunità che chiacchiera e che si diletta e approfondisce questo tipo di argomenti. E beh, che io... vi aspetta, a braccia aperte. Vi aspetta. E vi ricordo anche che tutte le nostre puntate sono sul sito del CSOA Forte Prenestino, in forteprenestino.net, nella slot Bocca Chica Cosmo, nella slot Radio Forte, nella slot Radio Bocca Chica Cosmotro. Io ringrazio prima di tutti Andromalis, poi con me qui Bimo e Remax, che ringraziano te. Esatto, immaginavo. Tutti ringraziano qualcuno e ci congediamo con la nostra classica sigla di buonanotte. Grazie e alla prossima.